Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, vi aspettavo, sono le 11.08, Giorgio Mattei in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, via con il nostro sommario. Degenerazione maculare legata all'età. Una diagnosi precoce salva la vista. Due è meglio di una. Imparare le lingue aiuta a crescere meglio. Se la forfora e i capelli fragili sono i tuoi problemi, abbiamo un consiglio per te. È la pellicola fotografica del nostro occhio. Se smette di funzionare, la vista ne fa le spese. Oggi parliamo della retina e di una malattia che può ridurre progressivamente la sua funzione. La degenerazione maculare, una patologia che, essendo spesso correlata all'età, viene detta anche senile. Oggi sono circa 1 milione gli italiani che hanno ricevuto una diagnosi, ma il numero è destinato a crescere, le stime non sono rosee. Nonostante questo, però, della degenerazione maculare legata all'età noi non ci curiamo, facciamo finta di niente, lo dicono i dati. 2 italiani su 3 non ne hanno mai sentito parlare. I dati sono emersi dall'indagine dell'Istituto Eurisco, la degenerazione maculare senile in Italia, e in linea con noi abbiamo la dottoressa Valeria Bistulfi, direttore di ricerca al Dipartimento Ricerche sulla Salute del DGFK Eurisco. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, siamo pronti? Allora, sì, noi abbiamo fatto questa ricerca, come lei diceva poco fa, su 1000 italiani dai 50 anni in su, quindi di fatto diciamo una fascia d'età particolarmente a rischio per sviluppare questo tipo di patologia. E sono emerse delle cose effettivamente interessanti e che possono anche un po' allarmarci o attirare la nostra attenzione. Beh, diciamo che innanzitutto in generale in questa fascia d'età il ricorso all'oculista per visite di controllo, quindi diciamo in generale per un atteggiamento preventivo, è abbastanza basso, nel senso che gli italiani over 50 in media dichiarano di non fare una visita specialistica da circa 2 anni, che non è pochissimo visto appunto l'età e la possibilità di sviluppare delle patologie specifiche dell'occhio. Se poi parliamo di degenerazione maculare, beh, la situazione è ancora un po' più grave, nel senso che i nostri dati, come diceva poco fa, ci dicono da un lato che questa è una patologia veramente molto poco conosciuta, cioè il 70% degli italiani non ha mai sentito parlare di questa patologia. E dobbiamo dire che le cifre di chi ha in mente qualche sintomo o anche ha l'idea che questa patologia possa portare anche a una perdita importante della vista sono veramente molto molto basse. A lato di questa scarsa conoscenza, il secondo elemento importante che è emerso dalla ricerca è quella che c'è uno scarso atteggiamento preventivo, ovviamente legato, certo, al fatto della bassa conoscenza. Insomma, sono due cose non che vanno... conosci e quindi non ti attrezzi, certo, per non ti prevenirla. Puoi attivare per prevenire o per avere degli atteggiamenti, no? Di fatto il numero, un numero su tutti, è che il 90% dei nostri intervistati non ha idea se la degenerazione maculare possa in qualche modo essere prevenuta e come fare per attivarsi in questa direzione. Quindi di fatto non si è fatto nulla in questa, dai 50 anni in su, per non lo so, avere uno stile di vita, un'alimentazione un po' più sana, uno stile di vita più corretto, per fare un controllo magari dall'oculista. L'ultimo numero che volevo darvi, ma che secondo me fa riflettere, è questo 3%, un numero veramente esiguo, di persone che ha fatto qualcosa per prevenire o per muoversi rispetto a questo tipo di problema, e se questa è la cifra, veramente significa che sarebbe importante far conoscere di più questa problematica, questa patologia, e anche promuovere, sensibilizzare. Certo, con campagne. Noi, dottoressa, proviamo a dare il nostro piccolo contributo. Intanto la ringrazio, le auguro buona giornata. Ringrazio e buon lavoro. Voi. Grazie. Arrivederci. Allora, questi dati ci fanno riflettere. Ognuno di noi deve imparare a diventare protagonista della sua salute, e quindi accogliamo l'invito delle campagne di informazione che ci sono state. Controlliamoci anche in assenza di disturbi visivi. La nostra vista deve essere un po' come capita alla nostra macchina. Molti di noi fanno il tagliando regolare alla macchina, questa è una buona cosa. I nostri occhi non ci si pensa. Oggi allora cercheremo di parlare di prevenzione, di sintomi di questa malattia, cercheremo di capire perché, come si manifesta, e soprattutto parleremo di terapie. Ci aiuteranno due ospiti, il professor Claudio Azzolini, che è in studio con me. Buongiorno professore. Buongiorno. Direttore della clinica oculistica e scuola di specializzazione in oftalmologia all'Università degli Studi dell'Insubria di Varese. E in linea con noi abbiamo il professor Giovanni Staurenghi. Buongiorno. Buongiorno. Direttore della clinica oculistica all'ospedale Sacco e direttore della seconda scuola di specialità di oftalmologia all'Università di Milano. Volevo chiedervi, prima poi di parlare di sintomi, segnali, se è possibile fare prevenzioni, chi rischia di più, come potete commentare i dati che ci ha appena sottolineato la dottoressa Bistulfi. Professor Staurenghi. Indubbiamente sono dati che purtroppo noi conosciamo bene ed è la realtà, cioè la difficoltà di fare una buona prevenzione o comunque intervenire nelle fasi precoci della malattia sono proprio legate alla non conoscenza della malattia stessa da parte della popolazione. 800 24 0024, se volete ricevere quelle informazioni che abbiamo visto sono necessarie e fondamentali, se avete ricevuto una diagnosi e volete essere informate sulle novità, sulle prospettive terapeutiche, 349 238 6666 se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. Impara l'arte e mettila da parte. E questo è certo, è sempre valido, ma alla luce di recenti ricerche il proverbio si può estendere anche allo studio delle lingue. Gli esperti ormai concordano sul fatto che l'apprendimento di una seconda lingua aiuti il bambino a crescere meglio. Ne parliamo oggi col professor Andrea Moro, ordinario di linguistica generale all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Professore, due meglio di una. Da bambini si impara meglio più in fretta, e imparare due lingue è una sorta di ginnastica per il cervello del nostro bambino. Sì, certamente, questa è una notizia e un'affermazione che in realtà non ci coglie di sorpresa. La linguistica del Novecento ha scoperto che tutte le grammatiche di tutte le lingue del mondo contengono un nucleo di regole comuni, sì, e che in qualche modo queste regole sono iscritte nella struttura neurobiologica del cervello e non c'è una predisposizione particolare per una lingua o l'altra, basta che la lingua contenga questo nucleo comune. Dunque il bambino, ci si aspetta, possa apprendere più di una. Tra l'altro questo tipo di osservazione è stato comprovato anche con le nuove tecniche di neuroimmagine che hanno dato dati fortemente a favore di questo. Cosa succede nel cervello della persona, adesso noi parliamo del bambino, che parla due lingue? Intanto la precisazione che lei ha fatto è molto molto importante, cioè c'è una distinzione fondamentale tra l'apprendimento spontaneo di più lingue e quella dell'adulto. Sì. Concentrandoci nel caso del bambino, naturalmente questo è ancora diciamo un tema scottante su cui non si hanno ancora bene le idee chiare. Quello che sembra accadere è che le due grammatiche crescono in qualche modo in modo autonomo. Certo, possono esserci delle interferenze, queste interferenze dipendono anche dal tipo di lingua. Se uno impara l'italiano e il cinese avrà un tipo di interferenza diverso che tra l'italiano e il tedesco. Quello che però si sa è che poi alla fine queste interferenze vengono risolte e il bambino si trova arricchito, è in grado di parlare in modo spontaneo due grammatiche diverse. Non è molto molto differente da quello che capitava in Italia quando i dialetti erano più diffusi. Si sa che i dialetti sono hanno una grammatica del tutto comparabile a quella di una lingua nazionale, per così dire, e quindi in fondo nella nostra esperienza anche aneddotica dei nostri genitori o dei nostri nonni si sa che in fondo parlare l'italiano e il dialetto non costituiva un problema fondamentale. Professor Moro, andiamo al caso pratico, andiamo al caso di un bambino con genitori di lingua diversa, ad esempio il papà italiano e la mamma inglese. Il bambino è candidato a diventare bilingue, ma è giusto sin dai primi mesi rivolgersi al piccolo con le due lingue insieme o è meglio iniziare con la lingua della mamma e poi far subentrare la seconda lingua? Perché questo divide molto le famiglie, perché si dice il bambino piccolo esposto a due lingue diverse ha un ritardo nella parola, nel senso che parla dopo, ecco. Sì, guardi, intanto il dato in qualche modo è ancora misterioso, non ci sono delle analisi molto precise sull'età di acquisizione, ma bisogna anche dire che non ci sono comunque dei dati precisi sull'età di acquisizione dei monolingui. Una cosa che si sa, per esempio, e questo lo confermeranno anche gli ascoltatori, insomma tutti quelli che hanno avuto esperienze di questo tipo, è che per esempio le bambine parlano prima dei bambini. Sì. E questo, ad esempio, può dare invece delle indicazioni importanti, per esempio le capacità motorie invece si sviluppano prima nei maschi. Questa cosa ci fa capire quanto ancora è importante capire la base biologica del linguaggio. L'altra cosa decisiva per rispondere alla sua domanda molto puntuale è che un bambino tende generalmente a considerare come propria lingua quella dei coetanei. Sì. Dunque, se si potesse dare un consiglio, se in assoluta naturalezza i genitori parlano la propria lingua coi bambini, cioè senza forzarlo, senza particolare coercizione, il bambino si trova decisamente arricchito e poi, a seconda della sua esperienza particolare, i bambini con cui gioca all'asilo, a scuola, per la strada, questo poi potrà influire sulla scelta della lingua dominante, ma decisamente direi che al massimo si trova arricchito. Quindi la mamma e il papà possono sin dalla più tenera età parlare contemporaneamente al bambino senza paura, anzi è un bel esercizio. Professor Moro, una domanda invece: da che età per un bambino che viene da una famiglia di genitori con la stessa lingua, quindi un bambino di genitori italiani, a che età è giusto inserire la seconda lingua, con, e se ci sono dei metodi più validi di altri? Dunque, anche questa domanda in realtà tocca un po' il cuore della questione dell'acquisizione del linguaggio nella linguistica moderna. Direi che più precoce è, meglio è. Ci sono fondamentalmente due punti dopo i quali l'apprendimento spontaneo diventa praticamente impossibile. Uno è la pubertà, e questo lo si sa proprio dagli studi clinici. Le lesioni al centro del linguaggio che provocano afasia sono rimediabili molto più facilmente se avvengono prima della pubertà. Dopo le cose sono diverse. Questi sono degli studi che negli anni 60 già erano molto famosi. Un neurologo americano, Lenneberg, in un libro che fu tradotto anche in italiano, I fondamenti e i bisogni del linguaggio, ne parla. E quindi il consiglio da dare è: prima si può, meglio è, magari giocando, magari senza forzare. Giochiamo ad anticipo, ma con grande naturalezza. Esattamente. Professor Moro, grazie, buona giornata. Grazie a lei. Pronto soccorso. Ecco, ci siamo tornati ad affrontare il tema del giorno. Parliamo di degenerazione maculare senile, una patologia che interessa la retina, di cui riduce progressivamente la funzione. L'aggettivo senile ci dice che è una malattia che è correlata all'età. Professor Azzolini, da che età la nostra retina è a rischio? Beh, direi che l'età in cui la retina può essere considerata a rischio è intorno ai 50 anni, poco prima, poco dopo. Quindi è bene che a questa età un soggetto si faccia vedere dall'oculista, non solo per farsi i classici occhiali, bensì anche per farsi dilatare la pupilla e farsi controllare e vedere bene dal suo oculista il fondo oculare. E chi rischia di più? Ci sono delle condizioni che accelerano la degenerazione maculare senile, dei disturbi refrattivi, uno stile di vita particolare? Sicuramente vi sono delle condizioni che facilitano la comparsa di questa malattia. Beh, prima fra tutte una vita sregolata, come anche in molte altre patologie, ma andando nei particolari, soprattutto il fumo. Chi fuma ha un più alto rischio di sviluppare questa malattia. La luce, se visto come i soggetti che vivono sempre all'aperto con molta molta luce siano predisposti a questa malattia, quindi è bene che queste persone abbiano occhiali protettivi. Dieta ricca di grassi e colesterolo e malattie dell'apparato cardiovascolare, quale la classica ipertensione. E naturalmente finisco l'obesità. L'obesità è un rischio per sviluppare questa malattia. Ne parleremo di obesità, ma al dottor Staurenghi io vorrei chiedere se ce la facciamo, ci spieghi che cosa succede alla nostra retina quando si manifesta la degenerazione maculare senile. Allora, utilizzerei un esempio secondo me molto semplice che usiamo normalmente per spiegare la patologia ai nostri pazienti. Sì. Immaginiamo la retina come un bel muro liscio, un intonaco perfetto dove proiettiamo l'immagine. Sì. A questo punto, come per il muro, con il passare degli anni si possono formare delle bollicine sull'intonaco. Questa è la comparsa, quella che noi chiamiamo al fondo dell'occhio, delle drusen che caratterizzano la patologia. Quindi, sì. Se abbiamo le druse, noi abbiamo la degenerazione maculare senile. Sì. In questo stadio però possiamo vedere sempre bene, abbiamo bisogno un pochettino più magari di luce per vedere meglio, però riusciamo sempre a vedere. Ed è qui l'importanza della prevenzione, cioè andare dall'oculista per sapere se abbiamo queste druse. E perché questo è importante? Perché successivamente si possono sviluppare due complicanze. Sì. Una forma cosiddetta atrofica, secca o di atrofia geografica, che è caratterizzata dal fatto che i nostri piccoli sollevamenti dell'intonaco, quelle bollicine, possono unirsi esattamente e poi scrostarsi. Quando si scrosta, chiaramente se noi proiettiamo l'immagine, dove non c'è l'intonaco non vediamo. Quindi questa è la forma secca. A differenza della forma umida, che è come, riprendendo sempre il nostro esempio del muro, se un tubo si rompesse e facesse uscire del liquido. Chiaramente l'infiltrazione che c'è nell'intonaco è molto più rapida di quella che abbiamo nella forma secca ed è chiaramente una causa di grave diminuzione della vista. E così come per l'intonaco, se noi interveniamo presto possiamo limitare i danni, se no chiaramente il nostro intonaco sarà rovinato e la differenza purtroppo del muro è che noi non possiamo ricostruire la retina. Dottor, la terapia si basa proprio sulla prevenzione, sulla cura di questa perdita di liquido. Dottor Staurenghi, l'esempio del muro ci ha aiutato veramente a visualizzare bene il problema. Abbiamo parlato dei fattori di rischio, professor Staurenghi, abbiamo cercato di capire, lei ce l'ha fatto comprendere bene che cosa succede nella nostra retina, ma io vorrei parlare anche dei sintomi. Ma prima do la linea ad Attilio che ci chiama da Bergamo. Attilio, buongiorno e benvenuto. Attilio qua, buongiorno, grazie Nicoletta per avermi richiamato. Io ho ascoltato queste ultime risposte dei professori, mi hanno già sollevato, sono già ben contento di questo che hanno detto. Sì, bene. La domanda era appunto sui sintomi, di cosa uno nota, però così rispondendo a questi dottori mi hanno già rassicurato, perché mi ha dato una martellata stamattina dicendo che i cinquantenni sono già a rischio. Io ho 51 anni e mi stavo rassicurando. Beh, certo. Tra l'altro di professione sono un pittore decoratore, ho a che fare con colori a tutto spiano tutto il giorno e la vista la devo usare per forza. Quindi la domanda era proprio i sintomi, perché sinceramente io non ho mai fatto una visita oculistica e rientro in quella statistica famosa purtroppo di noi italiani che non ci curiamo mai a farci controllare. Sì. Però era la curiosità dei sintomi che io non mi accorgo di niente. Io vedo benissimo, ho qualche... da un anno a questa parte ogni tanto quando cambio il campo ottico, cioè da lontano vicino, per esempio... ho un lieve appannamento, un puntino che non riesco a capire sulla sinistra o sulla destra di quale occhio che mi appanna, però non ci faccio caso. Quindi probabilmente non è questa questo, ma certo, rientra nella degenerazione maculare. Ma certo, Attilio, noi parliamo di salute, facciamo prevenzione, parliamo di malattie, ma non è che necessariamente dobbiamo sempre ritrovarci in questo profilo. Pensi per me che sono conduttrice, se no ogni giorno dovrei avere una malattia diversa. Ma è meglio essere informati, Attilio. Io la ringrazio molto della sua domanda, che giro al professor Azzolini. I sintomi quali possono essere? A quali dobbiamo fare attenzione? Beh, in questo caso i sintomi caratteristici sono una perdita progressiva e lenta nel tempo della visione centrale, cioè quello che noi stiamo vedendo, quello che noi stiamo fissando, piano piano viene visto sempre più buio, viene visto più sfumato e piano piano la vista si abbassa centralmente. Però certo è che prima di aspettare che questi sintomi proseguano, sicuramente un paziente si farà vedere dall'oculista. Abbiamo Salvatore che ci chiama da Savona. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiamare da parte di mia madre, che ha una maculopatia umida su un occhio e una secca sull'altro occhio. E ha fatto una puntura sull'occhio dove era la macula umida. E ne ha fatto solo una, doveva farne tre, ne ha fatto solo una, perché l'oculista gli aveva detto che ormai era troppo grande. Mentre io avevo insistito per farne tre, perché avevo letto su un giornale che queste punture servivano anche a ridurre la macula e non solo a fermarne. Ad arrestare la malattia, dice Salvatore. Anche l'oculista mi aveva detto che ormai era troppo avanti per trovare beneficio da queste iniezioni, di cui noi parleremo poi nel dettaglio. Ma professor Azzolini, che Salvatore dice una, ho letto che erano tre, l'oculista mi dice che ormai la malattia è troppo avanti, perché? I protocolli di utilizzo di iniezioni di questi farmaci parlano appunto di una iniezione o due o tre iniezioni, a seconda di come evolve la malattia. Il protocollo iniziale parla di tre iniezioni, ma è l'oculista che può decidere se continuare o meno a fare anche la seconda o la terza iniezione a distanza di 4, 5, 6 settimane, a seconda del tipo di farmaco che utilizziamo e a seconda del risultato degli esami forangiografici e OCT. Noi parleremo naturalmente, lei ha parlato al plurale, professor Azzolini, a seconda dei farmaci che utilizziamo. Quanti sono i farmaci oggi che vengono utilizzati per queste iniezioni intravitreali? Beh sì, essenzialmente due. Era utilizzato un farmaco che si chiama Bevacizumab, nomi molto difficili, che era utilizzato fino a poco tempo fa, aveva un certo effetto, ma era nato per i tumori dell'intestino e non studiato in oculistica. Oggigiorno invece noi abbiamo due farmaci che sono il ranibizumab e il pegabtanid, entrambi utili ed efficaci in questa forma. Il ranibizumab è un farmaco molto utile, efficace, ha un difetto purtroppo, è costoso. Però fortunatamente la Regione Lombardia, stimolata un po' anche dal professor Staurenghi, da me e da altri oculisti, abbiamo avuto dei colloqui per cui la Regione Lombardia, come speriamo e pensiamo tutte le altre regioni italiane, pian piano rimborsa gli ospedali di questo tipo di farmaco che è essenziale nella cura di questi pazienti. Eccoci tornati insieme, oggi parliamo di degenerazione maculare legata all'età. In studio con me il professor Azzolini, al telefono il professor Staurenghi, 800 24 0024, abbiamo individuato i fattori di rischio, il professor Azzolini ha sottolineato il fumo, il professor Staurenghi ci ha spiegato che cosa succede alla nostra retina quando si ammala, i primi segnali. Tra l'altro vi ricordo che sul nostro sito, sull'home page di Essere Benessere, abbiamo messo la griglia di Amsler, è un test per fare autodiagnosi, naturalmente non sostituisce la visita oculistica, ne parleremo tra poco, come invece degli esami che aiutano l'oculista a fare diagnosi. Ma adesso voglio commentare con il dottor Andrea Ghiselli. Buongiorno dottor Ghiselli. Buongiorno. Ricercatore dell'IRAN, l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, una notizia che è apparsa oggi sui giornali e che avrà acceso molte speranze e riguarda il gene dell'obesità. Dottor Ghiselli, sì. Che cosa possiamo sperare o no? Ma no. Assolutamente. Ecco. Allora, questa è una ricerca, è un risultato estremamente importante dal punto di vista scientifico, perché ci permette finalmente di inquadrare quali sono i geni coinvolti nella regolazione del metabolismo energetico. Sì. Al momento ovviamente non ci sono ricadute sulla salute generale, sulla popolazione. Certo. E anzi, notizie come questa potrebbero esporre a un rischio di, perché la persona sovrappeso, comunque in eccedenza ponderale, potrebbe avere trovato la scusa per il suo stato di... Infatti io per questo oggi l'ho invitata a fare chiarezza, perché è giusto, dobbiamo essere contenti di un risultato della ricerca che sta sicuramente andando avanti, ma da quella dire che va bene, faccio quello che voglio perché intanto poi qualcuno troverà la soluzione, no. Esatto, è come dire io ho il colesterolo alto per motivi costituzionali, e ci leva dalla responsabilità poi di curare il colesterolo, e così l'obesità costituzionale ci toglie dalla responsabilità di stare a dieta e fare una vita, uno stile di vita attivo, che è l'unica cosa che protegge contro l'obesità e contro il sovrappeso. Dottor Ghiselli, la ringrazio. Tra l'altro proprio il professor Azzolini, oggi noi parliamo di degenerazione maculare legata all'età, tra i fattori di rischio ha messo proprio l'obesità. Certo. E di recente abbiamo presentato una ricerca in cui si diceva che il movimento, correre, aiuta a vedere bene. Dottor Ghiselli, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Seguiremo una dieta varia ed equilibrata. E tanta attività fisica. Grazie dottore, buona giornata. A voi, buongiorno. Professor Staurenghi, nel nostro sito abbiamo messo questa griglia di Amsler, dove c'è praticamente una griglia con un puntino in mezzo. Ci puoi magari aiutare a fare questo autotest? Abbiamo già sottolineato che non sostituisce sicuramente la visita dell'oculista, così poi dall'autodiagnosi andiamo alla diagnosi insieme a lei. Ok, allora, il test di Amsler, come lei ha ben spiegato, è un quadratino, con una griglia, diciamo, con un puntino al nero al centro. Sì. Il paziente deve, mettendo la migliore correzione per vicino, quindi anche con gli occhiali, e coprendosi un occhio alla volta, deve fissare il puntino nero al centro e controllare che tutti i quadratini che si vedono lateralmente sono perfettamente diritti e sono visibili. Sì. Questo perché? Perché come il professor Azzolini ha accennato prima, i sintomi sono legati a una non visione di alcune zone centrali e la visione distorta. Quindi vedendo la distorsione di queste linee del test di Amsler, questo è il primo segno che, ricordiamoci il muro, l'intonaco si è sollevato, quindi c'è stata un'infiltrazione. Professor Staurenghi, anche delle linee che sembrano spezzate, ci scrive Anna Maria? Può essere... Allora, possono, l'interpretazione del test di Amsler personale è molto complicato. Basarsi solo, cioè dare delle regole precise, l'interpretazione possono essere molto varie. Sicuramente, se c'è un'alterazione del test di Amsler, conviene farsi controllare l'occhio. L'altra cosa importante è che spesso, ed è il motivo per cui molti pazienti arrivano con il primo occhio in una fase molto avanzata, è che vedendo con i due occhi è molto difficile accorgersi dei piccoli cambiamenti che avvengono in uno dei due. Invece, quindi è sempre importante fare il test coprendosi con un occhio chiuso. Esattamente. Professore, dall'autodiagnosi, dicevo, passiamo alla diagnosi. Due sono gli esami che permettono all'oculista di vederci chiaro, di capire se c'è la malattia e che livello è, no? Una è la tomografia a luce coerente, una sorta di TAC della retina, e l'altra è l'angiografia. Però mi piacerebbe che ciascuno di voi ci illustrasse uno di questi esami per capire i vantaggi e i limiti, e soprattutto quando e in quali casi sono indicati, se sono indicati tutti e due, se serve più uno dell'altro. Professor Staurenghi, vuole iniziare lei? Va bene, allora inizierei con l'angiografia, ricordando sempre il nostro esempio del muro. Sì. Abbiamo due tipi di angiografie. La fluorangiografia, che è l'esame sicuramente più diffuso e che ci permette di vedere dove la lesione e dove soprattutto c'è la fuoriuscita di liquido. Quindi sì, è come se noi mettessimo nel nostro tubo che perde un colorante e guardassimo sul muro dove si va a distribuire questo colorante. L'altro esame invece, che è l'angiografia con indocianina verde, utilizza un altro tipo di colorante e quindi ci permette di vedere proprio la struttura dei vasi, che in questo caso nella retina sono nuovi, quindi non presenti in una persona normalmente, e quindi possiamo vedere proprio la struttura anatomica nuova, neoformata. Questa è la differenza dei due esami. Sicuramente quello più usato è la fluorangiografia. Professor Azzolini, invece questa sorta di TAC della retina, così poi andiamo a Salerno da Sandro, per cosa fa vedere, quando è indicata, se è complementare agli esami che ci ha spiegato il professor Staurenghi, che cos'è insomma? Perché ogni cosa nuova sembra sempre che butti alle ortiche quello che c'è stato prima, magari invece serve. Certo, in questo caso invece è assolutamente complementare. È un raggio laser che viene riflesso sulla retina e dallo studio del raggio riflesso ricaviamo molte ma moltissime informazioni sulla retina, e abbiamo degli spaccati di retina in codice di colori che ci danno delle informazioni, vere e proprie informazioni istologiche della retina. Ha un altissimo potere di risoluzione fino a pochi micron. E già a livello sperimentale, sono migliorate moltissime queste apparecchiature, abbiamo la possibilità di vedere, quasi fotografare, quasi ogni singola cellula retinica. A questo punto capite come sia importante vedere quanto questi tubi di cui parlava il professor Staurenghi abbiano provocato i danni a livello cellulare, ma sicuramente l'OCT, questa tomografia ottica, questa TAC retinica, è complementare alla fluorangiografia, senz'altro. E quindi una volta che avete ben chiara la situazione della retina, riuscite anche a individuare la terapia più giusta. Certo. Gli ascoltatori, Sandro da Salerno, buongiorno. Buongiorno, salve. Avevo una domanda per i professori. Sì. Allora, io sono un medico di medicina generale e devo dire che la degenerazione maculare è una patologia di riscontro sempre più frequenti anche nell'ambulatorio. Sì. Solo che ho notato che si fa poca campagna di informazione su questa patologia a differenza delle altre campagne contro l'ipertensione, contro il fumo, contro l'epidemia. Sì. Quindi volevo chiedere come mai non si informano meglio i pazienti stessi, e poi come si può migliorare la prevenzione di questa patologia soprattutto se ci sono delle categorie professionali più a rischio di altre che anche noi, ecco, nell'ambito della medicina generale possiamo identificare meglio e consigliare. Grazie. Grazie al dottor Sandro da Salerno. Io volevo però sottolineare che l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità ha fatto delle campagne importanti, abbiamo del materiale sul sito della IAPB interessante che potete consultare, oltre ad avere a disposizione sempre un oculista che risponda alle vostre domande al numero verde 800 06 8506. Poi le campagne ci sono, tante volte noi facciamo un po' orecchie da mercante, ma sicuramente l'informazione deve essere più capillare, più mirata. Eccoci, siamo tornati, andiamo subito al nostro consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro Il bambino da 3 a 6 anni. Per ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it col titolo del libro, il recapito e, mi raccomando, il numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Professor Azzolini, Franco da Salerno, medico, ci ha portato così sulla tavola un quesito che anche, no, fa vedere quanto ci sia bisogno di informazione. Lui, come medico di famiglia, medico di base, dice: come fare informazione, come fare prevenzione, mancano le campagne, si sa poco. Professore. Ha senz'altro ragione, le campagne servono moltissimo, la prevenzione sappiamo che è importantissima e ci vogliono naturalmente risorse economiche, per cui cerchiamo di muoverci tutti noi in un mondo nel quale possiamo anche muovere risorse economiche nella prevenzione. E proprio a livello di prevenzione il mio sogno sarebbe e sarà quello di poter avere, per esempio negli studi di medicina generale, una macchinetta che possa fare una fotografia del fondo dell'occhio dei pazienti che arrivano da lei. Poi, con un sistema di telemedicina che peraltro già abbiamo, può essere trasmessa questa immagine in un reading center che poi dà il suo parere. Quindi in questa maniera si evita l'afflusso di pazienti in ospedale, ma soprattutto si fa molta prevenzione. Ed anche il professor Staurenghi è molto attento in questo. Professor Staurenghi, si può fare prevenzione anche attraverso uno stile alimentare? Questo sicuramente è stato accennato prima dal professor Azzolini all'inizio, tra i fattori di rischio una cattiva alimentazione. Certo, un'alimentazione ricca di vitamine può essere sicuramente d'aiuto. Posso dare un esempio di quello che avviene per esempio in Islanda, dove la degenerazione macolare senile, soprattutto la forma atrofica, è molto molto presente. L'80% della popolazione, nel nostro caso siamo attorno al 25%. Allora, la prima idea che si era fatta era sicuramente legato a un problema genetico, ma la Groenlandia, la Norvegia, che ha la stessa, diciamo così, gruppo di popolazione, non ha la stessa frequenza di patologia. E come mai? Probabilmente qualcuno dice che è molto difficile rimanere più di una settimana in Islanda perché si mangia solo salmone ricco di vitamina A, e quindi la vitamina A, che migliora sicuramente il ciclo visivo, ma in eccesso può creare un accumulo di sostanze tossiche che poi sono dannose per la retina stessa. Quindi un equilibrio di vitamine è sicuramente più corretto che non un accumulo di un solo tipo di vitamina. L'altra cosa che volevo far notare è che sui pacchetti delle sigarette adesso c'è una campagna del Ministero della Salute in televisione dove parla: il fumo uccide. Peccato che il fumo renda anche ciechi, e mentre sui pacchetti delle sigarette dell'Australia e di Singapore questo è riportato, da noi si fa ancora molta fatica a sottolineare questo grave rischio della salute con il fumo. Facciamo, come dicevamo, nel nostro piccolo un po' informazione, quindi io mi avvalgo sempre del vostro aiuto, dell'aiuto degli esperti, per mandare via voce, perché alcuni ascoltatori mi hanno scritto: non sempre i cinquantenni vanno su internet a trovare informazioni. Noi l'informazione la facciamo ogni giorno e siamo sempre a vostra disposizione anche se volete scriverci. Franco da Bologna, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, lei e i suoi ospiti. Tre quesiti rapidi. Sì. Per chi vede solo in un occhio, volevo sapere se la cura iniettiva rappresenta un rischio troppo alto. poi il grado di quanto si viene recidivata questa degenerazione una volta che è stata fatta la cura. E ho sentito parlare di una cura cinese su sempre nel campo della degenerazione del maculare. Una cura cinese, non mi sa dire altro, Franco? Ma è un qualcosa che si sta sperimentando, penso. Allora, professor Staurenghi, si può fare la cura per un solo occhio? Assolutamente sì, anzi, come le dicevo prima, il vantaggio del secondo occhio spesso è che il paziente sa già di che cosa si tratta e quindi riesce a accorgersi in una fase molto più precoce, e quindi la terapia è ancora più efficace, perché più noi interveniamo precocemente, più abbiamo dei vantaggi nel riuscire a bloccare e migliorare anche la sintomatologia. La seconda domanda di Franco faceva riferimento a quanto viene, diceva praticamente quanto recidiva il Franco. Ecco, questo è un pochettino più complicato nel rispondere, perché ci sono situazioni in cui poche iniezioni possono essere sufficienti, in altri casi invece si deve proseguire la terapia. A volte si deve anche combinare la terapia, cioè la terapia iniettiva può essere non completamente efficace, si può fare ricorso ancora alle vecchie terapie, tra virgolette, cioè laser e terapia fotodinamica. Laser e terapia fotodinamica. Sulla cura cinese, su queste novità che arrivano dalla Cina, siete preparati? Sinceramente io no, non le conosco. Volevo chiedere invece, lei l'ha citato, professor Staurenghi, la fotodinamica e il laser. Ci sono dei casi in cui le iniezioni intravitreali non vanno fatte, ma si ricorre ancora a questi che sembrano terapie del passato, ma sono assolutamente attuali, talvolta come lei anticipa vengono proprio alternate alle iniezioni. Ma quando è il caso del laser e quanto della fotodinamica? Allora, il discorso si riaggancia un po' alla diagnosi corretta e più fine ottenuta con le diverse tipi di diagnostica, quindi angiografia con fluorescina, con indocianina e OCT. A seconda del tipo di lesione, noi siamo preferiamo fare approcci differenti alle iniezioni intravitreali. Ecco perché, professor Staurenghi, professor Azzolini, quello che mi premeva è alcuni ascoltatori nei mesi scorsi anche mi scrivevano: ma non mi ha proposto le iniezioni intravitreali. Invece sono tutti, noi possiamo passare questo concetto, e cioè che queste terapie sono a disposizione, e non è che le iniezioni intravitreali abbiano mandato in soffitta il laser e la fotodinamica. Professor Azzolini. Senz'altro queste terapie iniettive sono utilissime, efficaci, si è visto di questi farmaci di cui si è parlato, ma possono essere associate molte volte alla terapia laser normale o alla terapia fotodinamica, e comunque la terapia laser normale e la terapia fotodinamica hanno delle nicchie ancora valide di cura sicuramente. Ringrazio il professor Staurenghi, grazie professore che è rimasto con noi. Grazie mille a voi. Ciao Giovanni. Ciao Claudio. Professor Azzolini, grazie. Torneremo come sempre ad occuparci della salute dei nostri occhi. Vi ricordo, me l'avete già richiesto, il numero dell'IAPB 800 06 8506. Bene, come promesso, adesso parliamo dei nostri capelli. Se li avete fragili, spenti, se combattete con la forfora, ma gli shampoo antiforfora vi sembrano troppo aggressivi, fermatevi, perché abbiamo una ricetta che fa per voi. In linea con noi la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco. Skineco è l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno. Partiamo proprio dalla dermatologia ecologica. Diciamo una nuova branca della dermatologia che presta particolare attenzione alla dermocompatibilità e alla ecocompatibilità di quello che ci mettiamo addosso sulla nostra pelle, quindi sia cosmetici ma anche tessuti, detersivi per la casa, ingredienti di ogni genere. Ed ora veniamo alla ricetta. Per quanto riguarda invece il discorso della forfora e dei problemi del cuoio capelluto dell'ascoltatore che vi ha scritto, io suggerisco degli impacchi di olio vegetale. È molto indicato è l'olio di ricino o l'olio di jojoba che si trovano in farmacia, sì, oppure anche in erboristeria, magari con aggiunta di qualche goccia, 3-4 gocce di olio essenziale, possibilmente di biologico, di lavanda o di rosmarino. Applicare questo olio con aggiunta di olio essenziale sul cuoio capelluto, sì, massaggiare bene, non un massaggio a sfregamento, ma proprio un bel massaggio del cuoio capelluto, quasi di scollamento del cuoio capelluto, mettere l'olio anche lungo i fusti del capello, praticamente sono le lunghezze, tenere su il tutto per una mezz'ora prima del lavaggio. Questa è una bellissima azione sia sulla desquamazione, cioè sulla forfora, sia proprio sulla sostantivizzazione del fusto del cuoio capelluto. In pratica rende i capelli più forti, più corposi. E più forti, e stimola anche, grazie alla presenza dell'olio essenziale, il follicolo pilosebaceo, ovvero il bulbo pilifero, quindi aiuta anche un miglior nutrimento del capello. Magnifico, il tutto con un semplice impacco. Ricordiamo il tipo di olio: olio di ricino, di jojoba, ma anche l'olio di oliva può andare molto bene, ecco, è che puzza un pochino di più. Va bene, grazie dottoressa Serri, io l'aspetto domani. Bene, mi piacerebbe parlare delle mani. Va bene, buona giornata. Buongiorno. E buona giornata a voi che ci avete ascoltato. Appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto.